E per finire, sempre in tema di referendum e argomenti connessi, permettetemi una precisazione. Il direttore di Radio Popolare mi fa notare, con la cortesia di un vecchio amico, che la settimana scorsa, affermando che parlarvi del referendum ero impedito da iniqua legge sulla par condicio dal fatto che la direzione della nostra radio avesse deciso di adeguarvi, sì, ho commesso un'imprecisione. Quella decisione non è stata presa da lui, dalla direzione, ma dal consiglio d'amministrazione della nostra società. Non ho ovviamente difficoltà a dargliene atto e mi spiace dell'equivoco, tanto più che di quel consiglio d'amministrazione faccio parte pur indegnamente anch'io, e a quanto pare alla sessione in cui è stata presa quella decisione importante non c'ero, o se c'ero dormivo. Succede, siccome chiunque l'abbia presa quella decisione io la considero nociva, la prossima volta vi assicuro che studierò l'ordine del giorno con qualche diffidenza in più.